Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come annunciato ieri, ci occuperemo anche del giro d'affari, quindi del valore del legno arredo in Italia. Oggi infatti si è aperto ufficialmente il Salone del Mobile di Milano, un indotto che, pensate, solo per Milano, cioè l'insieme delle attività che va a generare, vale circa 450 milioni. Ma il settore del legno arredo è uno dei quattro settori portanti del nostro Made in Italy, e quindi le 4A di Marco Forti, se qualcuno lo ricorda: l'automazione, l'arredo, il legno, appunto, l'agroalimentare. E da questo punto di vista, fermo essendo che l'agroalimentare ha un peso anche diverso dagli altri settori, ne abbiamo parlato in questi giorni, il legno arredo non sfugge assolutamente a quello che è l'andamento dell'export, con una ripresa molto forte nel 2009. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, di questo parleremo, ma parleremo anche in apertura dell'inchiesta del Sole 24 Ore su, diciamo, gli elementi che frenano la crescita italiana, perché l'Italia non cresce. Vari elementi, anche alcuni a costo zero, questo nella logica e nel ragionamento dopo l'appello lanciato dalla Presidente Confindustria Marcegaglia: gli industriali lasciati soli, ci sono delle riforme che possono essere fatte a costo zero, e comunque bisogna dirigere anche le poche risorse che ci sono verso politiche industriali. E poi nella seconda ora del programma sarà nostro ospite il Presidente del Monte dei Paschi di Siena, nonché Presidente dell'ABI, e mi riferisco a Mussari, perché Giuseppe Mussari, perché il Monte dei Paschi ieri ha varato l'aumento di capitale tra 2 miliardi e 4, e oggi ha presentato il piano industriale, e quindi sarà l'occasione per ragionare del Monte dei Paschi, ma anche del sistema bancario, e anche se le imprese bancarie si sono sentite meno sole in questi anni, e se magari così l'appello, il grido di dolore di Emma Marcegaglia fosse riferito anche al mondo bancario. 349, dicevo, 238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, come va la borsa? Vedo che qualcuno dice: hai detto solo le 3A su 4, non so, forse mi sono sbagliato, chiedo venia. Le 4A sono appunto quelle di Marco Fortis, i pilastri del nostro Made in Italy: l'automazione e l'automotive, c'è cioè tutta la meccanica che ruota attorno all'automotive, l'agroalimentare, come dicevo, l'arredo, legno arredo e l'abbigliamento. Se ne ho dimenticato una, chiedo venia. Andiamo avanti con la borsa: meno 1,5% Milano in questo momento, meno 1,5% Francoforte, meno 1,6% Parigi, meno 1,5% Londra, tutti identici, ma veramente identici. Cioè, a essere precisi, Milano perde l'1,46, Francoforte perde l'1,45, Londra perde l'1,45, l'unica che cambia un po' è Parigi, meno 1,64%. Quindi mercati assolutamente tutti in linea in Europa. L'America perde l'1,1%, da noi cala più della media Saipem, meno 4%, Tenaris, meno 3,80%, come ST Microelectronics. Il 3,20% lo perde Azimuth, ma anche le Tods. Il 3% è Caudi Prysmian, il 2,70% quello di Buzzunicem, il 2,5% quello di Impregilo, il 2,3% quello di Lottomatica, il 2,2% quello di Exor, il 2% infine il calo di Asorin e anche di Unicredit, ma anche di Eni. Monte dei Paschi bene, più 1,90% dopo l'aumento di capitale e piano industriale di oggi. Fondiaria Sai più 1,40%, Parmalat 0,5% percentuale di rialzo, Popolare di Milano più 0,40, questi sono gli unici quattro titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione ad essere in positivo. L'euro ha toccato oggi una quota che non vedeva da gennaio del 2010, a quota 1,45, adesso è leggermente sceso, ha ritracciato, come dicono gli esperti, a quota 1,44,66, ma insomma resta un euro forte come non si vedeva da un anno, quasi un anno e mezzo. Tra i migliori e peggiori in assoluto, cito il caso da un lato di Full Six che guadagna il 12%, dall'altro invece di Mondo Home Entertainment meno 5,46%. Come vanno gli altri mercati intesi come oro e petrolio al centro di interesse in questi giorni? Oro in calo a 1456, vabbè, ma siamo sempre a livelli record storici. L'argento è leggermente sotto i 40 dollari dopo il massimo toccato ieri. Cala invece in maniera un po' più significativa il petrolio a 108 dollari New York, l'1,5%. Segnalo che secondo Goldman Sachs, che però fu la banca che nel 2008 disse il petrolio arriverà a 200 dollari al barile, poi invece scoppiò la crisi finanziaria e il petrolio è sceso a 48-50, però nessuno è perfetto. Diciamo questo, che Goldman Sachs ritiene che la corsa delle materie prime possa finire a breve. La banca d'affari infatti 4 mesi fa consigliava di comprare materie prime, tra l'altro ebbe un ruolo, ripeto, proprio nel 2008 di speculazione sul prezzo del petrolio. Ritiene a questo punto che rame, petrolio e platino siano destinati a ridurre il loro valore. Benzina invece a record, su quello non ci sono dubbi. Il diesel è sopra la soglia di 1,50 euro al litro. La benzina ha toccato quota 1,590 euro al litro. E ripeto, lo Stato incasserà, grazie all'aumento del prezzo del petrolio, in piccola parte anche grazie all'aumento delle accise, ma insomma grazie all'IVA, 2 miliardi e 100 milioni in più di extra gettito. Ecco perché si dice lo Stato potrebbe avere sulla benzina una politica anticiclica. Cioè, se tu immaginavi di incassare, poniamo 10, ma grazie al prezzo del petrolio incassi 12, potresti incassare 10 come la previsione e rinunciare a questi 2 miliardi in questo caso, evitando anche il rischio di inflazione importata, cioè che l'aumento del prezzo della benzina poi si scarichi sui prezzi finali dei beni, no? Ancora, troppo comodo dire che nessuno è perfetto su Goldman Sachs. Era una battuta, insomma, in questo programma abbiamo attaccato le banche d'affari moltissimo e anche i loro stipendi. Ecco perché non capisco la critica di chi dice lei come ogni giorno si manifesta sempre più amico delle banche. Non so quale programma ascolti, obiettivamente le abbiamo attaccate per 2 anni di fila, ricevendo sicuramente non il plauso e la benevolenza dell'ABI. Mi sembra proprio che abbia sbagliato programma. Vabbè. Deficit commerciale americano a febbraio meno 2,6%, invece sulla Cina l'agenzia di rating Fitch ha tagliato le prospettive sul debito in valuta locale. Ed è la prima delle agenzie di rating, le agenzie che danno i voti ai debiti dei paesi, oltre che dei privati, a lanciare un allarme sulla straordinaria espansione del credito bancario cinese negli ultimi anni. E lì, insomma, dire che le banche cinesi hanno dei bilanci trasparenti è improprio. Le banche cinesi sono garantite di fatto dalla banca centrale cinese, insomma, un sistema un po' diverso dal nostro. Il Fondo Monetario oggi è tornato nel suo rapporto sui vari paesi e ha sottolineato che il Giappone, a seguito di un deficit del 10% e di un debito che ormai viaggia verso il 46%, avrà bisogno di rifinanziare quasi il 56% del suo PIL, ma è arrivato un nuovo plauso all'Italia, nel senso che l'Italia dovrà rifinanziare il 22,8% del PIL, ma soprattutto l'Italia, ha fatto notare il Fondo Monetario Internazionale, ha visto calare le spese pubbliche nel 2011 al 49,8% del PIL, sotto la quota del 50%, ed è tornata anche avere un leggero avanzo primario, cioè la differenza fra l'entrata e l'uscita prima di pagare gli interessi è positiva, di uno 0,2% del PIL. E dice il Fondo Monetario Internazionale, i conti pubblici italiani si sono deteriorati meno di quelli di altri paesi. La critica sull'Italia riguarda le tasse. Il peso delle entrate italiane è pari al 45,5% del PIL. Non c'è un paese che abbia un peso fiscale sul PIL più forte di noi, dopo la Francia, che è al 50,1%. Il Giappone è al 31%, la Germania è al 43%, Canada 37, l'America il 30%, l'Inghilterra il 37%. Voglio dire che il peso fiscale in Italia sia eccessivo e soprattutto scaricato solo su quelle che le tasse le pagano, non ci sono più dubbi. Ancora due notizie, poi passiamo al primo tema di apertura. Le riforme, non dico a costo zero, ma insomma tutto ciò che ostruisce la crescita italiana e che potrebbe essere oggetto di vera politica industriale. Telecom Italia, i soci poco fa hanno approvato il bilancio, il 10,5% ha votato no. La maggioranza del Consiglio di amministrazione va a Telco, fuori la Findim, non avrà nemmeno un rappresentante. Per i fondi entrano Luigi Zingales, Ferdinando Beccalli e Francesco Profumo. La lista di Telco ha preso la maggioranza dei voti, tra l'altro la suggestione ha raccolto il 40% dei consensi, quindi avrà 3 posti su 15 disponibili nel Consiglio di amministrazione. Findim voterà e ha votato contro l'approvazione del bilancio. È la finanziaria di Fossati, che è socio del gruppo con il 5%. Ultima notizia, Fiat è salita al 30% di Chrysler, il 5% annunciato ieri da Sergio Marchionne, e ha detto Sergio Marchionne potremmo salire oltre il 51%. Sentiamo il commento, poi la sentiremo su altri temi, di Emma Marcegaglia, presidente Confindustria, al microfono della nostra Mariluisa Pezzali questa mattina durante l'inaugurazione del Salone del Mobile. Mi sembra un fatto positivo, mi sembra che Fiat persegue in modo deciso la sua politica, diciamo, di aggregazione con Chrysler, quindi mi pare che la situazione vada nella forma già definita e i passi vanno avanti. E ne parleremo più avanti. Torniamo sul tema delle politiche per la crescita, perché oggi la Presidente di Confindustria Marcegaglia ha parlato anche di altro, poi ne parleremo con Giuseppe Mussari, con il numero uno dell'ABI del Monte dei Paschi. Però insomma, io vorrei far notare che il Sole 24 Ore, da poco diretto da Roberto Napoletano, è partito con un'inchiesta molto interessante, a puntate diciamo, sul perché l'Italia non cresce, che detto così sembra una domanda così retorica, una domanda da salotto. In realtà c'è poco salotto e molta ciccia, se mi permettete, in questa inchiesta. Vi dico solo le prime 10 puntate: il nanismo delle imprese, il divario nord-sud, il lavoro diseguale tra chi ha il contratto normale e il contratto tipico, le infrastrutture ferme per 7 miliardi, la giustizia lumaca che costa 3 miliardi e 300 milioni. L'energia, giustizia lumaca significa anche 1250 giorni che ci vogliono in Italia per recuperare un credito. Non lo dico perché sembra che in questo paese l'unico problema della giustizia sia quello del penale, noi vorremmo invece che venisse risolto in primo luogo quello del civile, e quindi i crediti vantati e i pagamenti. Comunque 6 miliardi di fondi mal spesi e poi il patrimonio, il risparmio incagliato. Noi abbiamo un risparmio, una disponibilità che è 4,5 volte quasi il debito nostro, ma non viene utilizzato nel paese. Oggi su Sole 24 Ore riassume questi punti meglio di come non abbia fatto io l'editorialista Fabrizio Galimberti, che torna a scrivere, e questo ci fa molto piacere, nostro ospite fin dall'inizio di questo programma. Fabrizio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, torniamo a occuparci di economia, economia in maniera molto concreta, sul quotidiano. Noi, devo dire, lo continuiamo a fare da 10 anni e vorrei capire, tu oggi inizi il tuo fondo in prima pagina dicendo, cioè, ma c'è un filo rosso tra queste cose, perché poi l'obiezione di Tremonti, che abbiamo sempre lodato per come ha difeso i conti pubblici e anche oggi il Fondo Monetario Internazionale glielo riconosce, l'unica obiezione che si può fare a Tremonti è: bene, come Ministro delle Finanze la cassa è salva e per ora così deve essere, ci sono delle manovre, dei margini manovra a costo zero che potrebbero essere o quasi a costo zero o con soldi già attribuiti che potrebbero essere utilizzate. Tra l'altro, proprio questo lo dicevo nel giorno in cui Tremonti ha annunciato domani il lancio di un insieme di iniziative che adesso vi ricorderò. Qual è il filo rosso di queste prime 10 puntate? Beh, il filo rosso direi che è proprio una qualche cosa che non dipende né da Tremonti né dai governi di qualsiasi colore si abbiano, ma che affonda delle radici strutturali in una incapacità fra pubblico e privato di collaborare per il bene comune. C'è un sospetto atavico che dura da un secolo, anche più, un sospetto atavico fra pubblico e privato, in cui il privato guarda il pubblico come qualche cosa da cui bisogna difendersi e il pubblico guarda al privato come un suddito e non come un collaboratore in vista di un bene comune. E tutto questo lo si vede proprio nel fatto che, come dice anche in uno di quei contributi Luca Paolazzi, quello che manca in Italia non è tanto la capacità di fare interventi straordinari, ma proprio quella di fare buone politiche ordinarie, politiche di viabilità, politiche di controllo del territorio, politiche per la giustizia, per la scuola. Ecco, tutto questo ha posto l'Italia in una situazione di minorità tanto più evidente adesso, in quanto sì, adesso la concorrenza internazionale è fra sistemi paese più che fra singole aziende. Noi abbiamo ottime aziende, ma abbiamo un cattivo sistema. Manca il paese. Allora, su questo, se io le chiamassi riforme a costo zero, o perché non costano, o perché i soldi sono già utilizzati, ma utilizzati male, sbaglierei il titolo? No, non sbaglieresti il titolo. Io fra queste riforme a costo zero considero emblematico il fatto del ritardo nei pagamenti della PA. Abbiamo fatto tante misure per la moratoria presso le banche, per ritardare nel tempo il rimborso dei prestiti che le banche hanno fatto alle imprese, ma il modo migliore per dare decine di miliardi alle imprese è quello di accelerare i pagamenti della PA, che sono vergognosamente lenti. Eh sì, però faccio notare che l'altro ieri il commissario europeo è andato, è il commissario europeo ai fondi regionali, si chiama Johannes Hahn, è di Vienna, conosce bene l'Italia, conosce bene il sud perché ci va in vacanza, ha fatto un giro tra Palermo, Napoli e Bari nella scorsa settimana, fine settimana. Insomma, ha fatto una conferenza stampa, ha detto: attenzione, in Europa solo la Romania riesce a spendere peggio di voi i soldi per i fondi europei per le aree sviluppate, per le aree da svilupparsi, Fondo Europeo Sviluppo. Pensate che al sud si riesce a non spendere fino al 93% dei fondi. Il record negativo, così diamo anche nomi e cognomi, è della Puglia. Nel periodo 2007-2013 l'Unione Europea ha stanziato 1 miliardo e 300 milioni di euro, la Puglia ne ha spesi il 7,5%, cioè 95 milioni. La Campania non ha fatto meglio, ha speso l'8%, la Calabria il 13,8%, la Basilicata un po' meglio il 24%, la Sicilia ha speso, poi non voglio nemmeno sapere come, diciamo solo quello che hanno speso, l'efficienza è un'altra puntata. La Sicilia, su 2 miliardi assegnati dall'Europa per il Fondo Sociale, ha speso solo negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, l'11%. Fabrizio. Sono delle percentuali sconsolanti che indicano una cronica incapacità a spendere che viene appunto da quel filo rosso di cui parlavo, l'inefficienza dello Stato, la pletora di organismi concorrenti su uno stesso problema, l'incapacità di mettere tutti d'accordo e non ultimo anche la corruzione e il controllo del territorio, specie nel sud dove la criminalità organizzata spesso l'ultima parola sulle cose da fare. Sentiamo che cosa proporranno, cosa dovrebbe uscire dal mondo industriale, visto insomma la denuncia di Emma Marcegaglia di domenica, insomma non siamo mai stati lasciati così soli, e questa è la politica, attenzione, cioè far spendere i soldi già stanziati è la politica, non si tratta di avere nuovi stanziamenti. Velocizzare la pubblica amministrazione è la politica che lo può fare, non le riforme, le leggi di riforma. E questo vale anche per la giustizia civile e i suoi ritardi, le leggi di riforma sulla giustizia civile, l'energia pure lì, leggi di liberalizzazioni, questo vuol dire risparmiare senza dover tirare fuori soldi in più, e su questo bisogna dirlo, il governo di riforme non ne ha fatta una, per cui aspettiamo con calma le altre, difendiamo Tremonti, ma notiamo anche che le riforme stanno a zero. La Marcegaglia sulle assise di Bergamo, con quale sarà l'agenda degli industriali per il paese? Bergamo, guardi, vuole essere proprio un momento in cui tutti gli imprenditori iscritti a Confindustria, coloro che vorranno, insomma, parteciperanno, sarà un momento di mobilitazione nostro, di dibattito nostro interno, dove ragioneremo non solo sull'agenda della politica, ma anche su noi stessi, su quello che dobbiamo fare, le sfide che abbiamo come impresa, le sfide sulle relazioni sindacali, e usciremo da questa agenda avendo condiviso con tutti i nostri imprenditori quali sono le poche cose forti, fondamentali da fare, e su quelle veramente creeremo anche alleanze con sindacati, con altre associazioni di impresa che la pensano come noi, e poi appunto ci presenteremo per dire questo paese ha bisogno di crescita, serve un disegno a medio termine, queste sono le proposte chiare, concrete e forti degli imprenditori italiani. Allora, chiede un ascoltatore come mai con tutte queste cose, elementi negativi, l'Italia resta la sesta non lo è più, la settima potenza economica mondiale. Facile, perché abbiamo un sistema di impresa che è tornato a esportare nel 2010, ha recuperato un 15% sul calo, 15-10% sul calo del 2009, e grazie alle piccole, medie, anche grandi imprese, che l'Italia resta la settima potenza economica mondiale. Facile. Andiamo avanti, adesso arriviamo a tutti gli interventi annunciati, perché insomma oggi su Sole 24 Ore tu, Fabrizio, fai una lista di tutti gli interventi annunciati e che sono o fermi o il cui esame è in corso. Alcuni, devo dire, io non ho visto nessun semaforo verde, ma sarò daltonico, alcuni avrebbero dovuto essere raggiunti, ma così non è stato. Vorrei però fare sentire ancora la Presidente di Confindustria sul decreto Salva Parmalat, e quindi sulla difesa, sul principio della difesa dell'italianità delle imprese. Vediamo di capire realmente come sarà. Ovviamente quello che noi abbiamo sempre detto, l'importante è che non ci siano, come dire, azioni difensive semplicemente dell'italianità. Se però c'è un progetto industriale serio e vero che vede degli imprenditori italiani coinvolti, beh, ben venga ovviamente, no? L'importante è che non ci sia semplicemente una volontà di proteggere, di chiudersi agli investimenti esteri, perché poi l'attrazione degli investimenti aumenta la crescita, aiuta a creare occupazione, quindi noi non siamo contrari, anzi noi siamo a favore di una maggiore attrazione degli investimenti. Questo è un paese che attrae pochissimi investimenti esteri, anche meno della Francia, no? Che tutti vedono come protezionista, però la Francia ha attrazione di investimenti molto maggiore di quella che abbiamo noi. Eh sì, il 4% di tutte le società italiane sono controllate da quelle straniere, in Francia sono l'8%. Fabrizio Galimberti, rischiamo di tirar su barriere inutili con il decreto Salva Parmalat, o comunque, poi lo chiederemo anche a Mussari più avanti, o comunque è un modo per darsi del tempo? Oggi sulle 24 ore apriva proprio sulla cordata, il tentativo di cordata Granarolo con Legacoop e allevatori. Prego. Se ci sono delle cordate alternative vanno benissimo, ma io sono contrario a dei decreti che pretendono di sostituire al mercato le ragioni della politica. Il latte e lo yogurt non sono beni essenziali, strategici, e quindi in questo caso io lascerei che sia la contendibilità del mercato ad avere l'ultima parola. Allora, dopo il metro e la pubblicità ti chiederò l'ultima, ti farò l'ultima domanda, che sarà per te più un cammino verso il Golgota che altro, perché vorrei la lista di tutti gli interventi annunciati e a che punto siamo con, io ti farò il nome degli interventi, tu mi dirai a che punto siamo, se sono ferme le misure, se sono gli esami in corso oppure se sono stati approvati. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Adesso arriviamo anche alla borsa, che ha chiuso poco fa, qualche minuto fa, con un calo dell'1,55%. Vorrei concludere però leggendo, per chi se la fosse persa, la lista di tutti gli interventi annunciati in economia, e appunto non interventi con costi aggiuntivi, però che sono o fermi o il cui esame è in corso. Lo dico perché domani il ministro Tremonti potrebbe o dovrebbe portare nel Consiglio dei Ministri anche lo schema del Piano Nazionale delle Riforme con la DEF. La DEF è la Decisione di Economia e Finanza, che conterrà le nuove previsioni macroeconomiche e appunto che Tremonti presenterà domani in Consiglio dei Ministri. Il Piano Nazionale delle Riforme ci viene chiesto entro fine aprile da Bruxelles. Tra l'altro oggi anche il presidente dell'Istat ha detto che al paese serve una svegliata. Allora vediamo gli interventi annunciati, quindi in cui il governo crede, se no non li avrebbe annunciati, che però per tanti motivi sono fermi o il cui esame è ancora in corso. Devo andare rapido, ma partiamo dalle imprese, le imprese e lo sviluppo. Allora, il disegno di legge che prevedeva strumenti automatici, bandi di gare e procedure negoziali è fermo. Il disegno di legge, istituiva anche un fondo unico in cui confluivano le risorse delle norme abrogate e quelle che saranno assegnate dal CIPE, è in corso l'esame. La corsia preferenziale per le piccole imprese, sempre prevista nel disegno di legge, una riserva del 50% delle risorse, è ancora in corso l'esame. E fin qui andiamo bene, perché se poi andiamo sul fronte imprese e burocrazia è tutto fermo, cioè gli oneri della burocrazia per le attività produttive, quindi non poter introdurre ulteriori oneri senza tagliarne già esistenti, ferma la riforma. Lo sportello unico e fascicolo elettronico, ferma la riforma. La semplificazione e la riduzione delle procedure richieste ai datori di lavoro per informative e consenso ai fini della privacy, ferma la riforma. L'adeguamento alle regole dell'Unione Europea dell'IVA su servizi, rimborsi e misure antifrodi, con la possibilità di dedurre l'IRAP del 10% dall'imposta dirette, misura ferma. L'autocertificazione a tutti i livelli di amministrazione, che per snellire la burocrazia, l'esame è in corso. L'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, l'esame è in corso. E poi il famoso articolo 42 sulla libertà di impresa nella Costituzione, che modificare l'articolo 41 della Costituzione, l'esame è in corso, è alla Commissione Affari Costituzionali. Questo è il fronte imprese. Poi c'è il fronte mercati e liberalizzazioni, qui sono dolori. Prezzo della benzina, la Robin Tax per le società petrolifere che se non si adeguano al ribasso della benzina, misura ferma, anche perché nel frattempo il governo ha aumentato le accise, quindi un po' di contraddizione la vedo. L'intervento organico per la remunerazione degli affidamenti, lo sconfinamento in conto corrente, quindi banche e assicurazioni, misura ferma. La tutela dei consumatori del mercato dando più poteri all'antitrust, misura ferma. Le frodi assicurative, la possibilità di procedere d'ufficio, misura il cui esame è in corso. Il disegno di legge che deve riorganizzare i servizi pubblici locali con l'autorità per l'acqua, fermo. Finisco con la banda larga, 100 milioni Dopo l'intesa del ministro Romani Tremonti, misura ferma. Il piano sud, misura in cui esame in corso. L'abolizione nel mondo degli appalti delle ricostruzioni delle riserve sui lavori, cioè il fatto che se un'azienda vince un appalto non puoi erogare poi altri fondi in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal contratto, misura ferma. Il piano casa, misura ferma. Gli immobili vincolati, quelli protetti dalla legislazione sui beni culturali, misura ferma. La white list antimafia per chi può partecipare alle gare degli appalti, misura ferma. Così come ferma, e concludo, il divieto di arbitrati tra aziende e pubblica amministrazione negli appalti in caso di contenzioso. E infine le semplificazioni, anche lì il decreto che doveva portare le semplificazioni nel mondo degli appalti è ancora in corso l'esame. Fabrizio Galimberti. Eccomi qua. Kevin Modi. Pronto? Cosa possiamo dire dopo questa lista? Niente, che spero dire... non abbia ucciso gli ascoltatori, però. C'è una lista completa che tu hai appena enumerato di tutti questi provvedimenti e ci sono dei cerchietti nel Sole 24 Ore di oggi a pagina 4 accanto ad ognuno di questi provvedimenti. Uno dei cerchietti è opera progetto completato, ebbene non c'è nessun, con un cerchietto blu, non c'è nessun blu, sono tutti o rossi, misure ferme, oppure gialli, misure in corso. E quindi è un Technicolor molto sconsolante che dà l'impressione appunto di uno stallo politico, di uno stallo del paese, non si riesce a sfondare, ad andare avanti, e certo l'instabilità politica in corso non promette bene per il futuro. Allora dico una cosa, così la chiariamo. A parte il fatto che è arrivato Fabio, ha chiesto le mie dimissioni, faccio notare che non le ho proposte io queste riforme, cioè si prende la responsabilità chi le ha proposte, non le ha approvate. Ma faccio notare che, visto che molti scrivono sul processo breve, quello non è fermo, non interessa nulla in questo programma del processo breve. Quello che è importante è che, così come riesci ad andare avanti con alcune riforme, dovresti farlo con riforme molto più urgenti, visto che il paese cresce meno della metà del resto d'Europa e qualche problemuccio economico ce l'ha. Questo è il punto, non è il resto dell'attività politica. Facesse quello che vuole, la maggioranza e faccia le sue riforme, ma falle tutte. Grazie Fabrizio Galimberti. Il traffico, la borsa e poi il salone del mobile, così respiriamo un attimo e poi parliamo del Monte dei Paschi con il suo presidente Giuseppe Mussari. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa. Una nota però, attenzione, che chiedere al governo e alla maggioranza politica di fare le riforme che essa stessa, la maggioranza e gli stessi il governo ha annunciato, non significa condividere tutto in un senso, ma significa solo dire: se annunci una riforma, se annunci un provvedimento, poi fallo, poi potrà piacere o non piacere, questa fa parte della vita e dell'opinione di ognuno. Quello che obiettivamente lascia perplessi è che vengono annunciate le cose e poi non fate. Tutto qui, almeno uno potrebbe vederne gli effetti. E lo dico a chi scrive, evidentemente segue un altro programma, nessuno ha mai detto che è colpa del governo la crisi economica mondiale. Facciamo un elogio a Tremonti per come ha tenuto botta sui conti, praticamente al giorno, da due anni a questa parte. Comunque, la borsa. C'è Ocondi nella Radio Corriere sulle 24 ore, 1.5% di calo su tutte le borse europee. La domanda che arriva dagli ascoltatori in questo caso, e che mi sembra più che pertinente, come mai con un petrolio ai massimi Saipem cede il 3,80, Eni il 2%? Ciao, buonasera a tutti. Il petrolio sì, è ai massimi, ma oggi ha perso parecchio terreno, ha perso più di $1.50 in apertura sui mercati asiatici. Questi erano anche titoli, come ad esempio nel caso di Saipem, che avevano ben performato e quindi sono arrivati alcuni realizzi. Comunque oggi le borse sono andate tutte molto male, specie dopo il dato sui prezzi all'import americani, così le vendite sono arrivate un po' su tutti i titoli, diciamo così. Ancora, per quello che riguarda i titoli, segnaliamo oggi il peggiore tra quelle maggiore capitalizzazione. Non è Saipem, non è neanche Tenaris, che entra nella scia, diciamo, del settore petrolifero più o meno, ma è ST Microelectronics, meno 3,85%. Sì, ST è il peggiore, come dicevi tu. A inizio aprile aveva toccato addirittura quota 9 euro sulla scia dell'acquisto da parte di Texas Instruments della National Semiconductor per 6,5 miliardi di dollari, un acquisto che aveva mandato l'intero settore dei chip in effervescenza, e poi ha ripiegato, tant'è che dall'inizio di aprile ST ha perso oltre l'8%, la buona parte delle perdite è arrivata comunque oggi. Le banche, avremo modo di parlare a lungo con Giuseppe Musseri dopo. Monte dei Paschi, segnalo che dopo il via libera l'aumento di capitale da 2 miliardi e 4 di ieri sera, il piano industriale di oggi con più di 2 miliardi di dividendi, quindi di utili da ridistribuirsi da qua al 2015, adesso vado a memoria, 2013, più 1,80%. Sì, qui è stata fatta chiarezza, diciamo, su una delle ultime situazioni che restavano da chiarire nel settore bancario. L'altra resta quella di Popolare di Milano. Monte dei Paschi ha finalmente ammesso che dovrà fare questo aumento di capitale, ha anche chiarito il proprio piano industriale che prevede un utile netto a 1,7 miliardi di euro entro il 2015, ha anche aggiunto che taglierà 2.500 dipendenti e così la borsa l'ha premiata, più 1,8%. Ancora, Telecom Italia, visto i soci hanno approvato il bilancio, riflessi sul titolo? No, non particolare, il titolo non ha sostanzialmente risentito di quello che è stato l'esito dell'assemblea e ha chiuso all'incirca in linea con il listino, poco sotto, meno 1,12%. Mentre prosegue il momento positivo di Fondiaria Sai, perché oltre a Monte dei Paschi e alla Popolare di Milano più 0,60 come Parmalat, il quarto ed unico, assieme agli altri tre chiaramente, titolo positivo è Fondiaria Sai più 1,22%. Sì, Fondiaria Sai da inizio mese ha guadagnato il 10%, questo dopo che ricordiamo che era naufragato un primo tentativo della francese Groupama di entrare sia nel capitale di Premafin che in quello di Fonsai. Era stato un tentativo bocciato dalla Consob che richiedeva un'offerta pubblica d'acquisto per l'operazione, dopodiché diciamo che Groupama si è mossa soltanto su Fonsai e ha chiesto all'ISVAP, cioè l'autorità di controllo delle assicurazioni, l'autorizzazione a entrare solo nel capitale di Fonsai. Uh-huh. Il mercato sta premiando questa prospettiva. Sì, ecco, faccio notare che negli ultimi 3 anni, anche qui non c'è nessun elemento politico, è dato, il titolo Fondiaria Sai ha perso circa il 75% del suo valore, visto che parliamo spesso di stipendi dei manager soprattutto americani, ma non solo. Faccio notare che nel frattempo Ionella, Paolo e Giulia Ligresti, amministratori della società, hanno incassato stipendi per 5 milioni di euro a testa. Il ragionamento che si fa sull'America dovrebbe valere anche in Italia, legare lo stipendio, qualunque sia il livello, perlomeno all'andamento del titolo. Poi c'è Fausto Marchionni, che ha lasciato il gruppo nello scorso gennaio e ha ricevuto 5 milioni anche lui nel 2010, uno in più che nel 2009. Comunque, chiusa la parentesi, andiamo avanti con i migliori e peggiori in assoluto oggi. Full Six, che succede su Full Six? Ma niente di particolare, sono più 12, più 12%, ma questi sono titoli che hanno un bassissimo flottante, quindi bastano pochi ordini di acquisto e in vendita per muoverli. Full Six era stato al centro di una battaglia decisamente notevole qualche anno fa, oggi c'è stato questo balzo, ma tuttavia in borsa al momento nessuno riesce a dare delle spiegazioni particolari, forse i prossimi giorni ci daranno più chiarimenti se continuerà il rally. Peggior titolo invece, Mondo Home Entertainment meno 4,81, Alcatel-Lucent meno 5,35, Italy One Investment Warrant meno 7,14%. Grazie a Cioconi di Radio Corriere sulle 24 ore. Dicevo, adesso respiriamo un po' perché c'è un evento che è diventato a Milano l'evento più importante, superando anche la moda, che vale 450 milioni di indotto solo per Milano, cioè di ricaduta, e che soprattutto rappresenta una delle quattro zampe, è il caso di dirlo, del Made in Italy nel mondo, e quindi è l'unico elemento che in questo momento sta guidando quel poco di ripresa che si vede in Italia. Mi riferisco all'export. L'evento si chiama Salone del Mobile Cosmit e il settore chiaramente si chiama il legno arredo. 2700 imprese per l'edizione, che è la 50ª edizione. Il settore vale, giusto per darvi l'idea, 33 miliardi di fatturato il mobile, l'arredo, il design italiano. È balzata agli occhi oggi una fortissima presenza cinese nei padiglioni di Ropero, però insomma, si concorre anche in questo modo e tra l'altro voglio dire, faccio notare che l'export è ripreso tutto nel settore del legno arredo nel 2010, più 5,5%, 10 miliardi di euro il quanto abbiamo esportato nel 2010. Presidente del COSMIT Guglielmi, Carlo Guglielmi, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora facciamo una cosa, siccome adesso io ho il GR, sì, possiamo ricordare quanto ha contribuito a questi numeri una persona che recentemente è scomparsa, lei sa a chi mi riferisco, e poi le domande quelle di mercato gliele faccio dopo il GR. Mi riferisco a Rosario Messina, stato presidente Federlegno, scomparso prematuramente qualche settimana fa. Il suo ruolo in una battuta. Certamente, Saro era un imprenditore generoso, che significa che si è messo a disposizione della federazione e di tutti i suoi colleghi per migliorare il nostro sistema e fare in modo che il nostro sistema raggiungesse anche in momenti difficili come questi i risultati che ha raggiunto. È un grande vuoto che ci ha lasciato, è una mancanza che personalmente sento profondamente in un momento come questo, con la prima giornata del Salone del Mobile, in cui lui sarebbe certamente stato protagonista sia con la sua azienda sia come presidente di Federlegno Arredo. Che era la FLU, tant'è che la presidente Marcegaglia oggi ha detto beh, sarebbe bello dedicare anche il Salone del Mobile alla memoria di Rosario Messina. Come sta andando e le sfide del settore, presidente tra Guglielmi, tra 4 minuti dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, presidente Guglielmi, presidente del COSMIT, del Salone del Mobile, i numeri, l'impatto del settore, lo ricordavo prima, 33 miliardi di fatturato e un export che è risalito nel 2010. C'è ancora qualche criticità, ma soprattutto la prima sensazione che lei ha ricevuto dalla prima giornata del Salone del Mobile. Una sensazione positiva, non fosse altro che il clima è cambiato rispetto all'edizione dell'anno scorso, per esempio, che pure aveva registrato un numero record di visitatori. È un clima di moderata ottimismo, temperato evidentemente da tutte le notizie che arrivano dal mondo e che si calano nel nostro cuore, nei nostri sentimenti e condizionano evidentemente una propensione all'acquisto. Ma voi avete recuperato parte del calo del 2009 come settore? Sì, parte del calo, purtroppo ci sono alcuni settori ancora più penalizzati come quello dell'ufficio, abbiamo recuperato i primi mesi dell'anno, hanno fatto ben sperare, poi quanto è accaduto in Giappone e quanto è accaduto nel Nord Africa, anche se erano due mercati marginali rispetto al fatturato complessivo, ma certamente, come ricordavo prima, hanno colpito un pochino tutti e quindi hanno colpito la propensione all'acquisto, per la quale ci vuole serenità e allegria. Allora, su questo faccio notare che quanto a export del settore appunto del mobile arredo nel 2010 a livello europeo la Francia, il nostro export verso la Francia ha fatto un più 7%, sono quasi 2 miliardi, la Germania più 6%, la Gran Bretagna più 6%, l'America più 7,5, quasi mezzo miliardo di euro. La cosa importante, più in percentuale che in valore, è la Cina, più 46% a 124 milioni. Tra l'altro molto bene le sedie, più 10%, il settore illuminazione, più 4,4%, camere da letto, meno 2%. In bocca al lupo a tutti gli operatori, quindi li giri a nome nostro, presidente COSMIT Guglielmi, a tutti gli operatori di questo Salone del Mobile. Certamente, arriveranno numerosi. Grazie. Grazie a lei. Allora, come promesso, adesso torniamo a parlare di banche e di chi fa gli aumenti di capitale. Perché dopo quello di Banca Intesa San Paolo annunciato, c'è stato ieri sera approvato anche quello del Monte dei Paschi di Siena. E allora dicevamo, l'aumento di capitale entro l'anno tra i 2 miliardi e 2 miliardi e 400 milioni di euro annunciato ieri sera dal Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi e il piano industriale presentato invece questa mattina dallo stesso Monte dei Paschi. Piano industriale in cui si prevedono tra il 2011 e il 2015 dividendi, quindi utili da ridistribuire pari a 2 miliardi, anzi sopra i 2 miliardi di euro, e poi anche un leggero calo dell'organico da 31.500 a 29.000 dipendenti. Confermato da Standard & Poor's il voto, il rating sul debito di Monte dei Paschi dopo l'aumento di capitale con prospettive stabili. E ancora su questo però notiamo che è il quarto aumento di capitale in poche settimane. Siamo allora in collegamento, lo ringraziamo per la disponibilità, con il presidente del Monte dei Paschi di Siena, nonché presidente anche dell'ABI, Giuseppe Mussari. Buonasera, presidente. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Grazie. Allora, partiamo in ordine, diciamo, cronologico. Da ieri sera, atteso l'aumento di capitale, 2 miliardi e 4 in realtà. Come si distingue questo aumento di capitale? Perché una parte, se ho ben capito, vi servirà per rimborsare i cosiddetti Tremonti Bond, un'altra parte per richiamare le obbligazioni del prestito fresh, se ce lo può raccontare. Un aumento di capitale fino a 2 miliardi in opzione a tutti i possessori di azioni emettendo solo azioni ordinarie, quindi sia i possessori privilegiati che di risparmio avranno azioni ordinarie in opzione. Questo aumento di capitale ci abilita a fare la richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia per restituire i Tremonti Bond. Poi c'è un aumento di capitale fino a 450 milioni, utile a richiamare dal mercato un prestito subordinato denominato Fresh, che con le nuove regole di Basilea 3 non esplicava tutto il suo potenziale in ordine di patrimonio di vigilanza. Allora, in questo modo, quello che è un termine molto tecnico che però i nostri ascoltatori stanno iniziando a conoscere, cioè il Core Tier 1, diciamolo brutalmente in maniera un po' imprecisa, quanto fieno deve avere in cascina una banca per potersi permettere certi prestiti, quanto patrimonio deve avere in banca, sale dal 7,9% all'8,8%. Banca Intesa, col suo aumento di capitale, ce l'avrà al 10%. Qual è secondo lei la soglia più corretta? Il 10, l'8,8, l'8? Ma guardi, la soglia dipende ovviamente dalla dimensione, dalla qualità dell'attivo e dalla capacità e volontà di espansione del credito che una banca esprime. Noi riteniamo che per il Monte dei Paschi la soglia raggiunta e che in prospettiva diventa superiore al 9% nel 2015, e l'8,8 a cui lei si riferiva non tiene conto di 40 punti base di un'operazione che abbiamo già realizzato e che attende solo l'ultimo visto autorizzativo da parte della Banca d'Italia, perché altrimenti sono altri 40 punti base da mettere un top al dato che ha dato lei. A noi sembra una dotazione patrimoniale di ottima qualità, di dimensioni sufficienti, più che sufficienti a garantire la crescita e a garantire lo sviluppo degli impieghi di cui le parlava. Quindi non è solo un problema di percentuali, di gara chi ha il Core Tier 1 più grosso. No, il capitale di una banca è a servizio dell'esercizio di un'impresa, non è un numero, non è un dato di natura estetica. Ecco. No, vabbè, appunto, perché insomma, sennò diventa poi una gara, certo, molto, diciamo così, molto maschile di competizione. Senta una cosa, presidente Mussari. Questo però è il quarto aumento di capitale dopo quello del Banco Popolare, 2 miliardi a gennaio. UbiBanca 1 miliardo 2 settimane fa, vado a memoria, e l'ultimo Intesa San Paolo, ce l'ha raccontato Corrado Passera in diretta la settimana scorsa, 5 miliardi. Voi fate altri 2 miliardi e mezzo, diciamo, sommando in maniera molto facile si arriva a 10 miliardi. E qui la domanda è più come presidente dell'ABI forse che come presidente del Monte dei Paschi, ma secondo lei il mercato non avrà problemi a digerire tutta questa richiesta di soldi, perché questo vuol dire l'aumento di capitale? Guardi, dall'andamento del titolo, direi, dall'andamento dei titoli delle banche che lei ha citato, direi proprio di no. Intanto il Banco Popolare ha chiuso la sua operazione, sia le operazioni di Intesa San Paolo, ma anche quella di UBI e quella di Monte dei Paschi, sono garantite totalmente dal consorzio di collocamento. E quindi dobbiamo considerarle dal punto di vista dei flussi di cassa per le banche completate ed esaurite, visto che ci sono controparti importanti italiane e straniere che si sono assunte l'onere di sottoscriverlo a fermo. E quindi da questo punto di vista non vedo problemi. Allora, noi adesso abbiamo, Presidente Mussari, le informazioni per chi è in viaggio, poi vorrei capire se voi come imprese bancarie vi sentite sole, quindi l'appello, o siete state lasciate sole, e anche il tema del rapporto banca e impresa, in questo caso più come Presidente dell'ABI che come Presidente del Monte dei Paschi. 349-238-6666 per i vostri sms e il traffico. ...18:17, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Siamo del nostro ospite, il Presidente del Monte dei Paschi, nonché dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Mussari. Allora, Presidente Mussari, chiarito l'obiettivo e anche la dinamica e le modalità dell'aumento di capitale che ieri avete approvato, appunto sui 2.400.000.000, oggi nel presentare il piano industriale avete confermato oltre 2 miliardi di dividendi, cioè di utili da distribuire agli azionisti nel periodo 2011-2015, ma anche 37 miliardi di nuovi crediti all'economia nei prossimi 5 anni. E qui la memoria e la mente va all'appello di domenica scorsa, al grido di dolore, alcuni hanno chiamato, di Emma Marcegaglia, che ha detto: siamo stati lasciati soli, mai stati così soli, riferita agli imprenditori. Secondo lei si riferiva anche alle banche oltre che alla politica? No, assolutamente no. Io credo che il rapporto fra banche e imprese nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, sia stato vissuto da entrambe come un rapporto intanto tra imprese, perché le banche non sono altro che imprese che fanno un lavoro diverso dalle altre imprese. È stato vissuto in maniera serena, corretta, abbiamo risolto una serie di elementi problematici, abbiamo tavoli importanti sulla produttività e su altri temi insieme a Confindustria, abbiamo imparato a conoscerci meglio e a capire con grande chiarezza che le regole che riguardano il funzionamento delle banche non sono altro che le regole che determinano i rapporti fra le banche, fra le imprese bancarie e le altre imprese, e quindi che ci vuole un'attenzione comune. Quindi sicuramente non credo che l'appello della Presidente Marcegaglia fosse rivolto nei confronti delle banche. Credo che sia un periodo questo in cui le imprese italiane hanno avuto le banche al loro fianco, non solo per tutte le operazioni di sospensione dei mutui e poi le altre operazioni successive alla scadenza della sospensione, ma proprio perché si è instaurato un dialogo franco, chiaro e trasparente fra imprese bancarie e altre imprese del paese. Ma voi come imprese bancarie vi siete sentite sole in questi anni, lasciate sole? Guardi, noi come imprese bancarie ci siamo sentiti un pochino nel mirino negli ultimi anni. In particolare noi riteniamo di aver subito una serie di provvedimenti normativi che hanno inciso fortemente sia sul piano dei ricavi sia sul piano dell'imposizione fiscale. E questo probabilmente è successo peraltro sotto governi diversi, con logiche diverse, quindi non intravediamo un disegno, registriamo però le conseguenze, il fatto che i ricavi delle banche italiane tendono a ridursi. Rispetto a questo non si vuole ritornare ad antiche pratiche poco trasparenti, quanto piuttosto ad avere normative che ci consentano di essere competitivi rispetto ai nostri rivali europei. Il tema dell'usura, per esempio, è uno, ma per esempio su questo tema abbiamo una interlocuzione feconda sia con Confindustria che con le altre parti sociali, che col Ministero dell'Economia, e speriamo di trovare una soluzione che vada incontro in primo luogo alle esigenze delle imprese e dei cittadini, oltre che a quello delle banche. Torniamo in questo caso al Monte dei Paschi. Voi avete annunciato 37 miliardi di nuovi crediti all'economia. Visto che è un periodo in cui si parla molto anche di come tutelare le eccellenze italiane, mi riferisco alla Parmalat, e un gruppo come Intesa San Paolo, ma anche Unicredito, stanno cercando con molta fatica, devo dire, di trovare una cordata di imprenditori. Vorrei capire, lei, al di là di mettere a disposizione 37 miliardi come Monte dei Paschi, ha difficoltà poi a impiegarli veramente? Cioè c'è domanda di liquidità o c'è un po' di smarrimento nel mondo delle imprese? Prego. L'andamento degli impieghi degli ultimi mesi mi pare che dimostri come ci sia una crescita ragionevole, ma ci sia una crescita. Ed è tutto evidente che non siamo ancora in una fase economica brillante in termini di dinamicità, però siamo comunque in una fase economica nettamente migliore rispetto a quella di 2 anni fa. Non dobbiamo mai scordarci che nel 2009 il nostro prodotto interno lordo è crollato di più del 5%. Nel 2010 abbiamo aumentato il prodotto interno lordo più di un punto, nel 2011 ci avviamo sostanzialmente a conseguire risultati simili. Quello che ci manca forse è un elemento di dinamicità ulteriore, però se guardiamo ai macronumeri che poi segnano la qualità e la stabilità di un paese, noi nelle ultime, fortunatamente negli ultimi mesi, abbiamo visto ridursi lo spread fra Bund e BTP in maniera assolutamente significativa, e questo non può che portare giovamento alle imprese manifatturiere, alle imprese di servizi e alle imprese bancarie. Lei consideri che il 10 gennaio lo spread era 197 punti base, l'11 aprile è 123 punti base. Quindi diciamo in progresso, ma con un miglioramento quello che è poi l'andamento degli impieghi sulle imprese. L'ultima domanda, Presidente Mussari, se voi insomma siete la prima banca al mondo, si dice, no? Nati nel 1400. La più antica, sì, la più antica come storia, no? Ci mancherebbe, 1472, e quindi siete legatissimi con il territorio. Se domani vi fosse un'offerta, una scalata ostile di uno straniero, una calata francese o spagnola, mi sembra difficile in questo caso, ma magari di un altro paese, il modo più corretto per difendere magari quello che è anche un vostro cliente o comunque una realtà importante nel tessuto di imprese, quindi sociale, del Senese o della Toscana o di altre regioni in cui siete presenti, quale sarebbe secondo lei? Guardi, il tema vero è prevenire tutto questo, cioè si previene tutto questo se si hanno performance adeguate a quello che il mercato richiede e proprietà coese, stabili e convinte di aver investito per lo sviluppo del business su cui hanno investito. E quindi è un lavoro che va fatto nel tempo piuttosto che provare un rimedio quando il rischio si manifesta. Io credo che da questo punto di vista ci sia un lavoro importante da fare in Italia, e i provvedimenti che si affacciano possono essere provvedimenti che ci aiutano a ragionare in un'ottica di sistema o in un'ottica di un paese che non vuole essere solo un'espressione geografica. Ma questo non è contrario alla logica del libero mercato, alla logica del merito, alla logica che deve avere le migliori posizioni chi riesce a fare le cose meglio degli altri. No, assolutamente. È il paese, cioè è l'entità nazionale che è composta da più cose, altrimenti essere una mera espressione geografica o ritenersi una mera espressione geografica sarebbe oggettivamente riduttivo. Ma quindi secondo lei il salva Parmalat o il decreto insomma anti-OPA è una pezza temporanea? Ma è un rimedio ad una questione che c'è, vedremo come il Parlamento lo declinerà nella sua versione definitiva. Vedo però per esempio la modifica dell'oggetto sociale della Cassa Depositi e Prestiti, no? Sì. Come soggetto che può essere utile a prevenire, no? Certo. A costruire percorsi virtuosi che prevengano la possibilità che aziende importanti italiane perdano non tanto un loro radicamento fisico, anche un loro radicamento fisico, quanto la loro natura di imprese italiane. E non credo che ci sia da vergognarsi se si rivendica che alcune imprese strategiche per il nostro paese debbano anche avere una natura italiana. Assolutamente, ma non si rischia una nuova IRI? No, guardi, non credo proprio. Non credo sia questo l'obiettivo del Ministero dell'Economia, non credo sia questo l'obiettivo della Cassa Depositi e Prestiti, che ricordiamoci per il resto per il 30% è posseduta da investitori privati, che sono le fondazioni bancarie, che non credo abbiano nessuna intenzione di mettere su un carrozzone con le loro risorse. Mi auguro, grazie anche per averci ricordato che il Courtier One non è una prova, diciamo, muscolare, no. Dimensionale, e qui mi fermo perché ci sono molte persone, anche del gente di sesso in ascolto. Grazie al presidente del Monte dei Paschi, nonché presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari. Grazie a lei, buona serata ai suoi ascoltatori. Allora, siamo in conclusione, vedo alcuni sms di critica alle banche, questo avviene sempre quando parliamo con le banche o delle banche, ma è giusto anche sentire quali sono i progetti e le posizioni del gruppo che ha presentato oggi il piano industriale. Sul core tier 1 volete... Io veramente non posso entrare nel tecnico, è quel tasso, diciamo, che mette in rapporto quello che sono gli impieghi di una banca, cioè i prestiti di una banca, con il patrimonio che ha in cassa. Per evitare quello che si è verificato con le banche, con alcune banche straniere nel 2008, si fa molta attenzione adesso che questo core tier 1 salga, più sale più vuol dire che tu hai fieno in cascina, e poi lo chiede la riforma del credito che va sotto il nome di Basilea 3. Detto questo, mi devo fermare, vi saluto, vi auguro una buona serata e Focus Economia torna come sempre domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.